24 mattino, estate, di Gigi Donelli. 7:22 minuti, buongiorno a tutti voi da Gigi Donelli, da Peter Bescapè in regia questa mattina. Dunque, una giornata in qualche modo all'insegna di una delusione forte, quella appunto per gli appassionati della corsa verso la grande gara di fine, di chiusura, giochi olimpici, grandi attesa e naturalmente una speranza che si frantuma. Ma oggi abbiamo anche molti temi in questa estate, in questo agosto che di fatto non chiude quasi nessuno dei capitoli dell'attualità, della cronaca. Noi a partire dalle 8:20 circa avremo un ospite che oggi è protagonista di una denuncia che viene riportata anche da uno dei quotidiani che poi leggeremo in prima pagina, e parla di roghi tossici nella tragica indifferenza delle istituzioni. Si chiama Maurizio Patriciello, Don Maurizio Patriciello, che è il parroco di San Paolo Apostolo a Caivano, quindi in provincia di Napoli, dove i roghi non sono solo quelli che abbiamo sentito anche nei nostri giornali radio, quindi tra virgolette roghi di stagione, anche se naturalmente con molti appunto asterischi per varie letture, ma sono una vera e propria, lo strumento di una battaglia e di un ricatto che la malavita fa nei confronti della società. Poi parleremo anche della vita dura di pedoni e ciclisti. Pensate, 2 morti e 22 feriti a settimana per mano di pirati della strada. Questa è una media, un bilancio dei primi 6 mesi del 2012 con i dati raccolti dall'Associazione Amici della Polstrada, e dal 1 luglio le vittime sono state 17. Un vero e proprio bollettino di guerra a cui di fatto ci siamo abituati nel corso degli anni, perché i dati anche a livello appunto nazionale ed europeo, sentiremo, sono davvero impressionanti. Un dato che comunque indica come l'estate non sospenda in nessun modo il bollettino nero degli incidenti. La cronaca più recente è quella del fine settimana appena passato, parla di 3 vittime, 2 dei quali ciclisti, un pedone e un pedone investiti da guidatori che non hanno prestato soccorso. A Milano, proprio in queste ore, nelle pagine della cronaca leggiamo la ricerca, l'emergere di un testimone per quello che è stato il caso, come dire, viene sintetizzato nella cronaca cittadina di Via Gallarate, quindi caccia al pirata che ha travolto e ucciso il pensionato. Sentiremo a che punto è il lavoro appunto sulla legge che dovrebbe appesantire la posizione di chi appunto non si ferma, soprattutto dopo aver causato un incidente. Avremo diversi ospiti per parlare appunto di un fenomeno troppo diffuso, troppo tollerato in fondo da tutti noi nel corso di anni, e che produce dunque dei dati davvero allarmanti. Tutto questo naturalmente più tardi, a partire dalle 8:20 circa. Ora tempo di partire invece dalla rassegna stampa. Allora, vengono fuori i particolari. È un esame della WADA, il laboratorio è quello di Colonia, perché Schwarzer è stato controllato a casa della fidanzata Carolina Kostner a Oberstdorf in Germania, dove stava svolgendo gli ultimi allenamenti. Schwarzer, il tradimento. Questa mattina cominciamo dalla Gazzetta dello Sport, in prima pagina lo shock, escluso dai giochi, e lui che racconta: mi dopavo così. Il marciatore, primo a Pechino, positivo a un controllo, il CONI lo ferma subito, e lui racconta in questa intervista firmata da Pierangelo Molinaro, e dice è tutto vero, questo è uno scambio telefonico, Molinaro lo cerca più di una volta e sarà lo stesso Alex Schwarzer a rispondere, a richiamare il giornalista. Dice: sono Alex, so perché mi hai cercato, è tutto vero, ma è solo mia, ci tiene molto su questo punto la medaglia d'oro di Pechino della 50 km, quindi 4 anni fa. Insiste: la responsabilità è solo mia, nessuno ne sapeva niente, neppure Carolina, la mia fidanzata, neppure il mio allenatore Michele Didoni, neppure la mia famiglia, insomma la colpa è tutta mia. Il giornalista gli chiede: perché l'hai fatto? Perché volevo di più. più di cosa? Avevo davanti la 20 e la 50 chilometri olimpiche, ovviamente. Volevo essere più forte e andare più veloce. Abbiamo visto nei mesi scorsi degli allenamenti straordinari. Cosa stavamo guardando? Allora chiede Molinaro a Schwarzer. E lui risponde: no, ho preso questa disgraziata iniziativa a metà luglio, dopo aver concluso la preparazione a St. Moritz. Quello che ho fatto prima è stato tutto pane e acqua, ve lo giuro. Vengo da due stagioni difficili, vedevo davanti la grande occasione. Solo il 4 luglio a St. Moritz le aveva mostrato una condizione eccezionale, non le bastava. Sì, andavo forte, mi sentivo pronto per vincere, ma cercavo qualcosa di più. E dunque, quando ho assunto l'EPO, a metà luglio, mentre mi allenavo a Oberstdorf, chi l'ha aiutata? Qui c'è un momento di silenzio e una frase che appunto viene riportata nel virgolettato: non voglio andare in prigione. Chi le ha iniettato allora l'eritropoteina? Nessuno, l'ho fatto da solo. Dice: è impossibile. Il collega ribatte: no, è possibile, l'ho trovata su internet, dove era spiegato anche il modo per iniettarla. E poi il controllo. Sì, improvvisamente sono arrivati a Oberstdorf il 30 luglio, mi hanno chiesto un campione di urina, da quel momento ho smesso di dormire, mi è crollato il mondo addosso, sapevo che l'avrebbero scoperta. E infine l'intervista si chiude con, come dire, una sottolineatura della confessione stesso. Molinaro chiede: ora devono fare le controanalisi. Lui dice: del tutto inutile farla, confesso tutto, ho ingannato un sacco di gente anche attorno a me, familiari e amici che mi hanno aiutato in questi anni, ho tradito la fiducia di chi mi vuole bene, ho vergogna a tornare a casa dai genitori, non tornerò mai più a marciare, mi vergogno e basta. Si sente Schwarzer singhiozzare: scusi, non ce la faccio più, e riattacca. Questa l'intervista, il racconto appunto scioccante anche dal punto di vista umano di un atleta, di un grande atleta, di un atleta che è stato, lo ribadiamo, un formidabile vincitore della 50 chilometri di Pechino, di marcia, e sul quale naturalmente, a fronte di questo shock, come accade in questi casi, insomma, si stende un interrogativo che travolge anche il suo passato. 7:29 minuti 38 secondi, è tempo di sentire come vanno le cose sul fronte del meteo, per poi proseguire ripartendo ancora da questo caso. In primo piano. Schwarzer dopato, shock azzurro, e l'apertura di Repubblica questa mattina. 3 medaglie e una macchia per l'avvenire. Schwarzer rovina la festa azzurra nel giorno delle 3 medaglie per la stampa. Si parla di Giuda olimpico per il giornale, tradisce l'Italia con il doping. Approccio leggermente diverso per il Corriere della Sera. Doping, il dramma di Schwarzer. Dunque, naturalmente questo tema presente non solo nelle prime, ma con ampio spazio alle interviste. Una che sicuramente vale la pena di citare è quella che si trova oggi a pagina 2 di Repubblica. Michele Didoni, dunque ex campione mondiale, da 2 anni suo allenatore, che dice, viene riportato nel titolo: Alex ci ha preso in giro, trascina tutti nella vergogna. Michele Didoni, campione mondiale 95, da 2 anni allenatore di Schwarzer, non ce la fa nemmeno a parlare. Da chi hai saputo? Alex mi ha chiamato di pomeriggio, mi ha chiesto se ero seduto, perché secondo lui era meglio che non stessi in piedi, e poi mi ha detto che aveva una brutta notizia da darmi. E gli chiedono: ha sentito i genitori? Sì, dice, la mamma piangeva, la stavano portando in ospedale, ha avuto una crisi. Alex con il suo gesto trascina tutti all'inferno. E domanda doverosa: ma scusi Didoni, lei non si è mai accorto di nulla? No, infatti ora ho molto dubbi sulla mia capacità di fare l'allenatore. Del doping avevamo discusso, eravamo contro, avevamo parlato a lungo di Francisco Fernandos, il marciatore spagnolo trovato dalla polizia con sostanze dopanti in casa, e di quanto sia difficile ripulire la credibilità dopo un brutto affare. Un lungo profilo di questo atleta a cura di Emanuela Audisio, che ovviamente lo segue da anni e che definisce anche nel profilo del personaggio, con un titolo abbastanza chiaro, dice: lui, Carolina, il candore, la deriva del bravo ragazzo lasciato sulla via sbagliato. Dice: ora caccia al medico che lo ha aiutato. Emanuele Audisio scrive: ti raccontava che da ragazzo voleva fare il ciclista, ma che gli avevano proposto pratiche illegali. E così diceva: ho cambiato sport. Era andato a Saluzzo ad allenarsi con Sandro da Milano. A Pechino, 4 anni fa, la sua marcia trionfale nella 50 km, tutto il rettilineo da solo, piangendo lacrime di felicità. Campione olimpico a 24 anni. Unico oro dell'atletica azzurra, già fidanzato con Carolina Kostner, pattinatrice conosciuta a Torino nel 2006, i due con molta discrezione avevano tenuto la loro relazione nascosta. Insomma, una bella coppia d'oro, questi i due ragazzi dello sport italiano. Infine, prima di voltare pagina, oggi naturalmente si sprecano anche le ricostruzioni storiche di questo fenomeno, da Ben Johnson a Marion Jones, il lato oscuro che cancella un sogno delle Olimpiadi, ci ricorda lo stesso Zucconi, ma insomma un tema che francamente ritroviamo su vari punti, che il primo caso accertato di doping risale addirittura al 1904. In che disciplina, non ci sorprenderà, siamo nell'ambito delle grandi prove di resistenza. 1904, terzi giochi olimpici a St. Louis, Missouri. Il vincitore della maratona Thomas Hicks di Cambridge usò temerariamente la stricnina come stimolante. E a proposito della natura dello stimolante, davvero poi chiudiamo, cos'è che viene utilizzato, che cos'è stato utilizzato in questa circostanza e non solo? Bene, EPO, la terza generazione del grande male, da ormone curativo alle microdosi dopanti. Eugenio Capodacqua spiega: può essere considerato il male del secolo per tutto lo sport mondiale. Quando verso la metà degli anni 80 fu sintetizzato il gene che produce l'eritropoteina con l'obiettivo di curare i malati di reni e tumore, in pochi avrebbero potuto immaginare che questo ormone, composto da 193 aminoacidi, sarebbe diventato la sostanza doping più diffusa per quasi tutte le discipline sportive, in special modo per quelle di resistenza. Più EPO nel corpo vuol dire avere più globuli rossi nel sangue, cioè miglior trasporto di ossigeno ai muscoli, dunque prestazione più elevata, oltre che recuperi più rapidi. Sono questi i fattori che hanno fatto di questa sostanza la regina del doping e che l'ha portata a diffondersi di fatto in moltissimi sport. Ecco, a fronte di un test che è arrivato ufficialmente solo verso i primi anni 2000, trattandosi di un farmaco salvavita, l'evoluzione è stata continua. Dalle prime EPO alfa, il cui dosaggio risultava così difficile da rendere il sangue denso come una melassa, a tutte, diciamo, le evoluzioni successive. E così l'EPO di terza generazione, che produce i suoi effetti in dosi minime e che durano nel tempo. Ma nel frattempo anche i laboratori antidoping hanno fatto dei passi avanti. Quello di Colonia, appunto, che ha scoperto l'infinitesima quantità nelle analisi dello spagnolo Contador, è anche quello che ha trovato l'EPO nei campioni di Schwarzen. Insomma, una brutta storia che evidentemente non si chiude qui, tutt'altro, nel senso che forse si chiude la parte personale, appunto, di Alex Schwarzer, purtroppo, però di certo la questione resta estremamente delicata. Bene, andiamo a vedere allora altri temi, altri approfondimenti. Oggi cominciamo dal Sole 24 Ore, che in questo martedì 7 agosto apre con una inchiesta, 20 anni dopo, un'inchiesta sui 65 territori del Made in Italy, un'inchiesta che il Sole appunto fece nel 92, che ora riparte con un viaggio nell'Italia dei distretti, il racconto dell'economia reale, dunque un test sull'impatto della globalizzazione e della rivoluzione digitale. Racconta il Sole: il viaggio terminò alla fine del 92, l'Italia navigava nella bassa marea della Prima Repubblica, ma l'economia reale marciava in beata solitudine, fiduciosa nelle sorti progressive della creatività e del saper fare connaturato con l'italianità. Gli inviati e i giornalisti scandagliarono la trama e l'ordito dei distretti industriali, forse l'unico vero grande tesoro messo insieme dalla generazione di imprenditori italiani, sopravvissuta alla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Dunque il viaggio riparte 20 anni dopo nei distretti, il racconto dell'economia reale. Nel taglio centrale un'altra notizia che riguarda invece l'IMU, che fa volare le entrate fiscali, più 4,3%, con l'imposta sugli immobili, gettito boom del 1° settembre 2012, l'IVA però scende dell'1,4%. E poi naturalmente le tensioni, diciamo oggi Monti Germania, Monti in Europa, governi e parlamentari devono agire insieme, replica del Premier alle critiche tedesche che si sono sprecate sulla sponda dell'intervista appunto dei giorni scorsi del Premier al settimanale tedesco. Monti dunque le critiche di Berlino, e invece sotto le immagini di cui abbiamo già parlato dei giochi olimpici è invece l'apertura della stampa questa mattina. Politici di vari partiti contro l'invito del Premier italiano a lasciare più libertà ai governi, crisi dell'euro, intanto si muovono anche le banche USA. Il controllo del Parlamento non si discute, il virgolettato che viene definita da più fonti, diciamo la rettifica, o meglio la stoccata tedesca a Monti, il quale replica rispetto l'autonomia. Dunque le critiche di Berlino, e ancora su questo specifico ci sono quotidiani come Libero, appunto, che lo trasformano in una vignetta, un Monti in camicia nero. Il titolo è: capolavoro di Monti, si fa dare del nazista dai suoi tedeschi. Ma sul Corriere invece nasce un caso con Berlino sul ruolo dei parlamenti. Insomma, questo è un altro dei temi di giornata, e su questo secondo vi segnalo una riflessione, un commento a firma di Adriana Cerretelli. Il titolo è: i nervi scoperti di Berlino nell'Europa sotto stress. Di questi tempi, scrive Adriana Cerretelli, sono davvero troppi i nervi scoperti in Europa. Ne potrebbe essere altrimenti dopo 2 anni e mezzo di una brutta crisi che non passa. L'euro sempre in bilico sul vuoto, sfiducia, incomunicabilità crescenti tra gli stati. In quel clima di dissoluzione psicologica europea denunciato da Mario Monti, nell'intervista a Der Spiegel. Un'intervista verità la definisce Adriana Cerretelli, politicamente coraggiosa perché parla a un pubblico tedesco, non solo del disagio e dei sacrifici mediterranei, del preoccupante scontro nord-sud sul quale l'Europa rischia di schiantarsi, ma anche di una Germania non priva di zone d'ombra, comunque perfettibile e ben lontana dal rappresentare quella città del sole europea che troppo spesso ha la pretesa di essere. Monti, prosegue la Cerretelli, non cerca né vuole creare divisioni, cerca l'Europa che si sta dissolvendo, tenta di recuperarla per i capelli a forza di coesione, fiducia e solidarietà, di semplici verità invece di pregiudizi e propaganda, come il fatto che l'Italia ha bisogno di sostegno morale non finanziario, che finora di aiuti ne ha dati all'Unione e non ha mai incassati. La Germania, si sa, ama impartire lezioni agli altri, non riceverne, soprattutto quando sono puntuali e inattaccabili. La levata di scudi contro Monti, insomma, è stata dunque immediata, travolgente e bipartisan, quasi tutta concentrata però sul presunto attentato alla democrazia parlamentare tedesca compiuta dal nostro, quando dice l'ovvio, e cioè che se i governi hanno le mani completamente legate dai rispettivi parlamenti, senza nessuno spazio negoziale, sarà più probabile il collasso dell'Europa, di una sua maggiore integrazione. Ecco, infine, dalla Grecia alla Spagna, all'Italia, il sentiero dell'austerità si inerpica sempre più stretto e faticoso. Per salvare l'euro tutti devono fare la loro parte, se a dirlo è un italiano, si chiami Monti o Draghi, magari sorprende, ma rientra nel normale gioco di squadra europeo, o dovrebbe. sempre che l'Europa non sia diventato un arnese da buttare. Questo stamattina Adriana Cerretelli, i nervi scoperti di Berlino in prima pagina sul Sole 24 Ore. E adesso andiamo invece a sentire insieme come vanno le cose sulle strade italiane. In primo piano. La Padania questa mattina, Monti non conta un Kaiser, persino la Germania lo boccia, il suo governo va avanti a colpi di fiducia. Di una sovranità limitata invece il titolo del Foglio, che firma appunto con l'elefantino una riflessione sui voti, appunto sulla sovranità e la politica italiana, i voti di fiducia che hanno sommerso Monti, la riforma delle pensioni, altri tentativi onesti di mettere una pezza all'emergenza guardando al di là delle prossime elezioni, sono la maschera parlamentare o parlamentarista di una sostanza che cede il Parlamento. Tanto è vero che Monti ha detto in un colloquio con lo Spiegel, appunto, che viene definito settimanale prestigioso, che si concepisce in Amburgo Lega Anseatica, cioè lo è di fatto: se avessi dovuto tenere in considerazione le proposte del Parlamento italiano, non avrei dovuto dare il consenso italiano nell'ultimo Consiglio europeo. Boom boom e ancora boom, anzi ecco il resto, ogni governo ha il dovere di guidare il suo Parlamento. Insomma, da questo punto la riflessione questa mattina sul Foglio. Ma vediamo anche quali sono, oltre a queste due notizie che insomma dominano, e con questo mi riferisco naturalmente alla piega storta di questa mattina olimpica e alla lunga invece trattativa con punte aspre proprio come in questi giorni sul fronte europeo, gli altri temi, due da sempre dalla prima, in questo caso del Corriere della Sera, ci ricordano un arrivo, e in questo caso è il robot su Marte che fa sognare il mondo. Arrivano le immagini, esultano la NASA e Obama, dunque la grande ricerca della vita che prosegue con la sonda Curiosity. Ma anche a centropagina la guerra ormai da più di 17 mesi in Siria. In Siria il regime si spezza, il premier fugge e dice c'è genocidio, mentre gli insorti attaccano, assalto intanto alla TV di Stato. Velocemente, la guerra del memorandum è invece l'apertura di questa mattina per l'Unità, dunque il tema è lo stesso citato, lo scontro tra Monti e la Giordania e la Germania riguarda il commissariamento dei paesi in difficoltà. Per il Manifesto è Kaiser nostro, un'immagine di Monti dai colori si direbbe in Parlamento, vicenda appunto di nuovo è la stessa, così come il giorno la Germania contro Monti. Per il Messaggero invece è il doping che torna a conquistare l'apertura, doping shock per l'Italia. Centropagina la Siria, premier con i ribelli, il regime dice ormai è allo sbando. Infine il Secolo XIX, il giorno dell'oro e del fango, ovviamente il tema ancora è quello olimpico. Abbiamo ancora il Fatto Quotidiano, il tema invece è un altro. Guerra ai PM di Palermo, azione disciplinare. Dopo la pratica contro Scarpinato, il PG della Cassazione vuole trascinare dinanzi al CSM il procuratore Messineo e il PM Di Matteo per un'intervista sulle telefonate telefonate del presidente. Nelle pagine interne si parla di vendetta sui PM, avviata un'indagine disciplinare e è indicata appunto come una vendetta. Ancora c'è spazio per altre notizie, una delle quali è sicuramente calda da giorni, da almeno due settimane, riguarda l'Ilva in attesa della decisione del Tribunale che, lo ricordo, domani dovrà decidere sulla revoca dei domiciliari Riva sulla produzione dell'acciaieria. Insomma, un passaggio importante. Se chiude Taranto, stop a catena. Il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, è categorico: il blocco dello stabilimento pugliese coinvolgerebbe anche Genova e Novi Ligure. La minaccia di Ferrante alla commissione sul ciclo dei rifiuti, la replica del presidente della commissione Gaetano Pecorella che dice: tutto questo è inaccettabile, ci aspettavamo un rinnovamento. L'effetto domino dal primo giorno evocato e solo ieri esplicitato in una sede istituzionale. Leggiamo in questo caso l'articolo e la firma di Guido Ruotolo sulla Stampa, ma il solo ricordarlo ha fatto gridare al ricatto. Gaetano Pecorella, PDL, presidente della commissione sul ciclo dei rifiuti, non è tenero con Ferrante, non è accettabile il suo discorso, dice, ci ha detto che o gli lasciamo carta bianca oppure chiudono tutto. È stato deludente, ci aspettavamo un programma di rinnovamento profondo e invece nessuna discontinuità con il passato. Ecco, tema che viene affrontato ed ampliata nella pagina dedicata oggi ad Imprese e Territori sul Sole 24 Ore. Il titolo sostanzialmente è lo stesso, quindi la minaccia di fatto, la dichiarazione del presidente dell'Ilva Ferrante in attesa della decisione del Tribunale del Riesame. Poi però si amplia su una esplorazione della produzione di acciaio nel mondo, un'infografica molto esplicita che ci ricorda come anche in questo settore le cose siano cambiate rapidamente. Un gigante in milioni di tonnellate che è oggi la Cina, 683 milioni di tonnellate contro le 28 dell'Italia. Ecco un altro dunque tema, un tema d'attualità che naturalmente continueremo a seguire nel corso di questa settimana. Attualità drammatica invece quella della nuova strage, appunto rispetto alla recente attacco armato negli Stati Uniti, in questo caso è quella nel Wisconsin, quella strage nel Tempio Sikh. Il Fatto Quotidiano ci racconta il profilo dell'ex soldato razzista, suprematista bianco, autore del massacro nel Wisconsin. Era da tempo sotto osservazione per aver espresso più volte le sue tesi neonaziste. Questo il profilo di Michael Page. Di drammatica, di grande impatto e di tutt'altra natura è invece quello che sta accadendo oltre, appena ovest rispetto appunto al Wisconsin e ai fatti che abbiamo citato, e mi riferisco alla grande siccità, che ha trasformato, come racconta oggi Federico Rampini su Repubblica, i campi del Midwest in terra bruciata e ha messo in ginocchio il granaio d'America. Capisci che c'è da preoccuparsi davvero quando il ministro dell'agricoltura degli Stati Uniti, Tom Vilsack, dichiara: ogni giorno mi metto in ginocchio, prego perché piova, se sapessi fare la danza della pioggia giuro che la farei. L'allarme siccità è ai massimi livelli dagli Stati Uniti, granaio del pianeta, le conseguenze si trasmettono nel mondo intero. La caduta della produzione agricola fa temere un bis del 2008, quando tra le concause della grande crisi che tuttora attraversiamo vi fu anche un'iperinflazione globale delle derrate alimentari. 4 anni fa, lo ricordate, le proteste che dilagano nei paesi emergenti, dall'Indonesia all'Egitto, le prime proteste del pane, proprio i prodromi anche di quello che poi è diventata così la definizione della primavera araba, e poi Haiti, insomma i luoghi dove la gente protestava, tornava a protestare per fame. Quei tumulti del pane e del riso furono l'antefatto e un fattore scatenante della primavera araba, a cominciare dalla Tunisia. La mancanza di pioggia, racconta Rampini, affligge 29 stati americani, ha trasformato le immense distese del Midwest, dall'Illinois all'Indiana, in paesaggi aridi e desolati, con terreni arsi dal calore, come croste dure spaccate attraversate da crepe profonde. Certi campi, un tempo floridi, oggi appaiono quasi sterilizzati dall'onda d'urto dell'anomalia termica. Tutto questo per gli Stati Uniti, ma ci sono notizie preoccupanti che arrivano anche dalle nostre parti, molto più vicino. Il campo di Gran Turco che fa paura è anche quello dalle terre appunto della della pianura padana, pannocchie che dovrebbero essere lunghe almeno una spanna e ancora con i grani teneri, ma al loro posto, racconta invece Gene Ermeletti, ci sono cartocci vuoti con aborti di pannocchio e quando va bene 30 grani invece di 700-800. E in questo campo, racconta Paolo Minella, perito agrario e responsabile ambiente della Coldiretti di Padova, il danno è del 100%. Invece della mietitrebbia, qui entrerà il trinciastocchio, una macchina che frantuma le piante. Poi l'aratro seppellirà il tutto. Ecco che qui il raccolto di quest'anno servirà soltanto a concimare il terreno. Dalla bassa padovana al Ponesine, viaggio tra i campi senza raccolto. In Italia, danni previsti per mezzo miliardo di euro, richiesto lo stato di calamità naturale. Eccoci qua. E ancora, diciamo, rispetto ai temi della politica estera, della cronaca internazionale, un'analisi che invece citiamo da Avvenire, che ci porta nel day after dell'attacco terroristico alla frontiera tra Gaza, appunto tra Egitto e Gaza. Sinai, ora Morsi blinda i confini. E Morsi è il nuovo presidente egiziano, quindi una vera e propria stretta su Gaza dopo l'attacco jihadista di domenica. Intanto Gerusalemme celebra la vittoria. La stampa esulta, è stata sventata la minaccia terrorista. Sulla prima pagina del quotidiano Haaretz lo scontro armato avvenuto sul confine tra Israele ed Egitto domenica sera si è concluso con un grande successo dal punto di vista di Israele, grazie alla segnalazione fondata da parte del Shin Bet. Gli 007 si sono mossi con ampio anticipo e così le forze di difesa hanno potuto prepararsi adeguatamente lungo tutto il confine triangolare della penisola del Sinai. Poi la riflessione sui problemi a breve termine che il nuovo Egitto deve affrontare. Insomma, Israele ha preferito non calcare la mano rispetto alla non difeso, alla incapacità di difendere quella parte del confine da parte appunto di Israele. Morsi si trova di fatto nella sua prima crisi e anche quell'angolo, quel confine tripartito dunque tra i territori, tra Gaza, l'Egitto e Israele, torna ad essere uno dei punti roventi di questa estate 2012. 7:57 minuti, noi abbiamo concluso questa prima parte, GR24, poi torniamo insieme intorno alle 8:20, a più tardi. 24 mattino, estate. Sono le 8:20 minuti 55 secondi in questo momento. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono questa mattina, da Elisabetta Fusconi in assistenza, da Peter Bescapè in regia. La Campania è una bella signora gravemente ammalata, una dama dai nobili natali sciupata, coi capelli arruffati, le vesti ridotte a brandelli. Geme la Campania, soffre ma non smette di sperare, piange i suoi figli tormentati ma non cede alle minacce e nemmeno alle lusinghe di chi le impone di tacere. Non ne vogliono sapere i campani, sono italiani e come tali pretendono di essere considerati. Questo è un passaggio di un fondo, l'editoriale di Avvenire questa mattina, a firma di Maurizio Patriciello. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno. Don Maurizio Patriciello, allora, una campagna che sta andando avanti ormai per voi da molto tempo, per l'Avvenire che la riporta con forza da diversi giorni, uno spaccato di un'Italia davvero drammatica, le discariche, case infette e un corollario di minacce, roghi di pneumatici vicino alla parrocchia, e non dico ogni tanto, ma dico per esempio ieri stesso. Che giornata è stata quella di ieri? Ci aiuti a entrare in questa parte effettivamente d'Italia che quasi non conosciamo. Ma che le possiamo dire? Quello che adesso gli italiani vengono a sapere è quello che almeno noi di questa fascia delle province a cavallo Napoli-Caserta viviamo da anni. È qualcosa di molto doloroso. In fondo noi diciamo la Campania, però è anche C'è un errore nel dire la Campania, perché ci sono vaste zone della Campania, del Salernitano, dell'Avellinese, che magari di questi problemi non ne hanno. È proprio la conurbazione Napoli-Caserta che vive questo dramma dei rifiuti industriali tossici, altamente tossici, interrati e soprattutto dati alle fiamme. Quando si interravano solamente il problema c'era, ma la gente non lo avvertiva proprio immediatamente sulla propria pelle. Invece con i roghi, questi roghi maledetti, è proprio un continuo sfacello. Perché si è passato ai roghi? Si è passato ai roghi, si brucia tutto, si brucia di tutto. Ieri mattina siamo stati con i bambini, le mamme, ma proprio senza nessuna manifestazione, guardi veramente. C'erano almeno 3 mucchi di pneumatici all'esterno della parrocchia, stavano là da un mese. E i vigili fanno orecchie da mercante, tutti quanti fanno orecchie da mercante, stanno là, poi passano chi deve passare, li prende e li brucia, ma gli pneumatici servono soprattutto per far da combustibile, per farci bruciare sopra altre cose ancora più tossiche. Tutto questo accade a Caivano, che Caivano è uno dei paesi, è uno dei paesi. Ma voglio dire, Caivano, che forse vale la pena sottolinearlo, sono 35.000-36.000 abitanti, stiamo parlando di comuni comunque con un'altissima concentrazione di poi popolazione. Si confonde con Afragola, insomma un po' più là ci sta già la provincia di Caserta, con Acerra. E questo fatto stesso di essere ai confini delle due province ci crea tanti di quei problemi che non stanno neanche ai confini con l'Italia. Perché, Don Maurizio, che cosa rende? Perché succede che Caivano è provincia di Napoli, però subito dopo arriva la provincia di Caserta, per cui le competenze finiscono con il finire del territorio, ma non si vuole capire che questi fumi tossici non rispettano le frontiere, non sono così delicati da rispettare le frontiere. Quando ci sta un rogo, questo fumo arriva dappertutto secondo lo spirare del vento, là dove soffia il vento, là dove l'arriva. E dove arriva è sempre la stessa scena, cioè intanto il cielo proprio si rattrista, diventa nero, si insozza l'aria, si oscura il sole, sembra quasi una poesiola, invece è proprio così, guardi, è una cosa incredibile. Noi non vediamo il cielo terso da mesi. E la gente guarda, e come scriveva stamattina Diva Cristiano, proprio in una lettera al direttore, una biologa nostra, proprio noi parliamo di tumore, questo sì, certamente, che ne dica il ministro della salute, proprio noi viviamo questo dramma proprio sulla nostra pelle, ma al di là del tumore ci sono poi patologie della pelle, patologie respiratorie e soprattutto una cosa alla quale nessuno fa riferimento, e questo mi meraviglia terribilmente, perché proprio nel secolo della psicologia questa cosa si dimentica facilmente. La gente si deprime, cioè abbiamo proprio veramente i giovani depressi, proprio si deprime, cioè ormai non crede più. Guardi, ieri noi siamo andati dalla parrocchia, abbiamo avvisato i vigili urbani, abbiamo avvisato i carabinieri, abbiamo lavorato con il sindaco, abbiamo fatto niente, abbiamo preso uno di questi, ognuno prendeva uno pneumatico e siamo andati a portarli sotto il castello della piazza centrale, che sarebbe la sede del comune. Quindi tanti bambini, tante cose, proprio senza, non volevamo fare niente, neanche una manifestazione, niente, niente, niente, niente, dare il nostro contributo. Cioè i cittadini proprio vedono questo pericolo e danno il loro contributo. Bene, siamo arrivati in piazza, abbiamo depositato questi pneumatici, dopo 5 minuti il comune ha provveduto a toglierli. E questa è stata una cosa molto, molto, molto triste per noi. Dopo quanti giorni i pneumatici erano davanti alla parrocchia? Almeno un mese, guardi. Un mese. Quindi voi li avete portati... Li abbiamo portati sotto al comune, sotto così il comune, con tutti i bambini, con la mascherina, e l'intervento tutti i bambini è stato con le carrozzine. Fatto. Ma è una cosa veramente proprio delicatissima, proprio dignitosissima e anche molto sofferta. Siamo arrivati là, dopo 5 minuti hanno tolto. E questa è una cosa molto grave. Per cui la gente, tante persone ci vedevano pure per la strada, e tante si complimentavano, ma tanta gente proprio non crede, dice è inutile, non crede più. Cioè non hanno capito che proprio tutto questo sta spegnendo la speranza di un popolo, ma sta spegnendo il futuro. Non crede, oppure coltivanti anche altri interessi, insomma, intorno a questo. Coltivati interessi, perché ricordiamo, cioè, sembra, come dire, assurdo che questo possa accadere, ma sembra ancora più assurdo ciò che, per esempio, leggiamo nell'articolo di Valeria Chianese. Dice: ora si teme che i rioni come il Parco Verde di Caivano possano essere state costruite interamente su discariche abusive. Stiamo parlando di quartiere come l'Asse Mediano, che fu realizzato con i fondi stanziati dalla regione per il terremoto dell'Irpinia. Sì. In quegli anni ci fu un aumento, il boom delle imprese edilizie, insomma. Probabilmente, chissà, forse interrogativi su queste case infette in svendita. Oggi ci sono case che si acquistano a 200.000 euro per 400 metri quadri e i pentiti dicono costruiti sulle, appunto, sulle discariche abusive. Per questo. Guardi, quando il Parco Verde è stato costruito a Caivano, Caivano era ancora un paese agricolo, io sono di questa zona, i nostri genitori, i nostri nonni erano contadini. Queste terre ci hanno dato da vivere ai nostri antenati, non li hanno mai traditi, queste terre sono state sempre terre amiche e la Campania Felix è veramente proprio il terreno che ha dato da vivere ai nostri genitori. Quando costruivano questo agglomerato, alla gente, ai contadini, non era neanche concesso l'accesso di arrivare nei cantieri, per cui quello che è successo là lo sanno solamente loro e nostro Signore Gesù Cristo dal cielo, poi non lo sa più nessuno quello che c'è stato, voglio dire, in precedenza. Per cui servono veramente degli studi seri che vadano a vedere, a controllare, a rivedere tutto ciò che c'è stato. Perché quello che c'è stato quando c'erano i cantieri, lei pensa solamente alla costruzione dell'asse mediano, no? Erano dei cantieri enormi dove tu a te non era neanche concesso di avvicinarti, come facevi ad arrivare là? Cantieri enormi, con grande fretta, c'era un'emergenza, c'erano in quel caso i fondi, c'era da dare case. E poi queste strade che da Napoli arrivavano direttamente in periferia, per cui il nostro territorio è stato scempiato, è stato veramente dilaniato proprio anche da queste strade. I poveri contadini man mano si sono ritirati, tanti terreni sono diventati incolti. Se lei vede stamattina su Avvenire, c'è una foto, quella foto l'abbiamo scattata noi insieme ieri. Il pascolo tra l'immondizia, suppongo che si riferisca. Guarda, noi per scattare quella foto abbiamo dovuto ritornare indietro, perché quando ce ne siamo accorti, stava sotto il ponte della superstrada questo pascolo, quando ce ne siamo accorti già non era più possibile fotografare. Siamo ritornati indietro, abbiamo ripreso un'altra volta la direzione per scattare quella foto, per dire: ma guardate che questo è quello che noi guardate, stiamo lo scempio, un greggio, un grande greggio il sullo sfondo. Non riguarda solamente noi. Se Don Maurizio, una domanda. Lei mi ha detto che è cresciuto da quelle parti, da quanto tempo invece lavora su quel territorio nel suo. Sì. Da quanti anni? Io sono un ex caporeparto di ospedale, io sono entrato in seminario a 30 anni, quindi ho lavorato per 10 anni in ospedale e poi dopo la mia ordinazione c'era questo quartiere. Da quanti anni è lì? Come? Da quanti anni è lì? Sì, da 22 anni. Da 22 anni, perfetto. No, glielo chiedo e ci tengo, perché ieri quando abbiamo chiamato in comune ci hanno detto di non avere contatti telefonici con lei. Non ci hanno detto che fuori, questo penso anch'io, e avremo occasione anche di chiedere quantomeno come mai possano essere così invisibili una manifestazione di cittadini. La battaglia non è con il comune, anche perché il comune di Caivano è uno dei comuni interessati, ma siamo 1,5 milioni di persone interessate. L'altro giorno Avvenire riportava tutto il problema dei comuni che hanno impedito il pascolo alle pecore nel lago Nolano, Marigliano, eccetera, ma non hanno impedito ai contadini di coltivare l'insalata. Assolutamente, insomma. Don Maurizio, io la ringrazio, siamo andati ampiamente oltre il nostro tempo in questa fascia, ma torneremo a parlare con lei. La ringraziamo intanto per il lavoro che state facendo. Lo ricordo, Don Maurizio Patriciello è il parroco della parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano, dunque in provincia di Napoli. Tra qualche momento, mentre abbiamo fatto le 8:32 minuti, parliamo invece di un fenomeno che è ancora troppo grave nel nostro paese: la pirateria della strada, gli incidenti, insomma la dura vita di pedoni e ciclisti. Ripartiamo tra qualche momento. Vi ricordo intanto il numero verde 800 24 00 24. Subito 24 mattino, estate. Ci sono parecchi messaggi stamattina al 349-238-6666. Alcuni riguardano Alex Schwartz, dicono non mollare, hai sbagliato, ma hai fatto anche una delle cose più difficili ammettendolo. Poi c'è chi parla dei roghi, chi ci racconta anche a Verona, dice ho visto spesso quei roghi e bambini che non possono neanche uscire a giocare. E poi chi segnala delle situazioni come nella provincia di Frosinone. Insomma, molti messaggi questa mattina. Ora però parliamo di quei dati che continuano incalzanti, dati drammatici, 2 morti, 22 periti a settimana per mano dei pirati della strada. Questo per esempio è solo un piccolo taglio, il bilancio dei primi 6 mesi del 2012 secondo i dati raccolti dall'associazione Amici della Polstrada. Le vittime dal 1 luglio sono state ben 17. Oggi sui quotidiani, in particolare quelli milanesi, trovate ampio spazio appunto a ultimi casi in materia, ma cominciamo questa mattina per cercare di capire a che punto è la riforma del codice della strada, che ne è di quello che è il cosiddetto reato di omicidio stradale, dell'ergastolo, della patente. Lo facciamo con chi sta lavorando su questo, l'onorevole Mario Valduce, presidente Commissione Trasporti alla Camera. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, a che punto siamo? Beh, noi come commissione abbiamo tolto il testo dell'omicidio stradale e dell'ergastolo della patente dalla legge delega. Noi stiamo facendo una legge delega che a settembre va in Parlamento, che ha come obiettivo quello di dividere il codice della strada in 2 grandi parti. La prima parte riguarda tutti noi che guidiamo, come ci dobbiamo comportare, quali sono le sanzioni, sia di natura penale, amministrativa, che accessoria, e questi sono circa 100 articoli. Noi lo facciamo perché pensiamo che pochi di noi, a partire da me stesso, conoscano tutti i comportamenti che dobbiamo avere alla guida con le collegate sanzioni. Non abbiamo dubbi. L'altra parte invece è destinata a tutti coloro che lavorano nell'ambito della sicurezza stradale, cioè come si fa un cartello di segnaletica stradale, come si fa un automezzo, un 2 ruote, un 3 ruote, un pezzo di ricambio, un casco e così via. Perché è stato tolto l'omicidio stradale? È stato tolto perché è un argomento molto dibattuto, soprattutto all'interno del Parlamento, tra noi colleghi della Commissione Trasporti e i colleghi della Commissione Giustizia, che abbiamo una visione in questo diversa. Personalmente ritengo che il reato di omicidio stradale debba essere una nuova configurazione di reato da inserire nel codice di procedura penale, perché ricordo che il nostro codice penale, sicuramente di grande qualità, è stato fatto nel 1931, quando il problema della strada, ovviamente degli automezzi in circolazione, non c'era. Ricordo che in Italia abbiamo il record degli automezzi in circolazione, sono ben 50 milioni tra 2, 3, 4 ruote in circolazione. E quindi la fattispecie del reato stradale è una fattispecie che io sono convinto debba entrare nel nostro codice penale, perché è chiaro, è molto diversa la fattispecie di un incidente, il nome lo dice, da quello invece di un reato. Qual è un reato? Un reato è quando uno consapevolmente si mette alla guida o in condizioni psicofisiche non adeguate, drogato, ubriaco, o addirittura, come è successo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la cronaca ci ha riportato, i cosiddetti pirati della strada che poi vengono individuati, o si mette a fare le corse nei nostri centri abitati, ovvero anziché andare a 50 km orari o a 30 km orari, andando 80-100 km orari. Allora è chiaro che quando uno si guida in queste condizioni è solo un caso se che lui non commette un reato, ma normalmente, purtroppo, troppo frequentemente ci scappa il morto. Ricordo che le statistiche che lei prima ricordava ci portano a una sommatoria di circa 4.000 morti all'anno, a cui vanno aggiunti circa 15.000 disabili permanenti, ovvero nostri giovani concittadini che cambiano il modo di vivere. 15.000 spesso disabili permanenti, esatto, un numero impressionante. Esatto, che spesso molti di loro rimangono sulla sedia a rotelle, o insomma cambiano il modo di vivere perché l'incidente ovviamente lì meno mai in modo. Cambia la vita, naturalmente c'è un enorme costo sociale. Subito saluto la nostra seconda ospite, Giuseppe Cassaniti Mastroianni, presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Dunque, come procede questo percorso dal vostro punto di vista? E quando si vede appunto lo stralcio di questo, di questa parte, insomma, l'omicidio stradale è un po' il cuore, almeno viene percepito come tale, di un radicale cambiamento. Anche noi insistiamo che ci debbano essere pene certe e congrue, ma nella nostra proposta non abbiamo previsto la modifica, cioè l'inserimento di un reato specifico di omicidio stradale, in quanto riteniamo che l'articolo 589 preveda già la possibilità di valutare in maniera adeguata il reato. E riteniamo che sia la cultura dei magistrati che impedisce la giusta applicazione della norma e che i magistrati trasformino la discrezionalità, cioè questo potere che ha dato loro la legge, in arbitrio. Tant'è vero che anche con la normativa esistente le pene adeguate si possono dare. Per esempio c'è stata la condanna nell'ultimo periodo di luglio, non so, il 21 luglio mi pare, la condanna di Illir Beti a 21 anni di carcere. Sì, 21 anni e 4 mesi, e l'imprenditore, per ricordare agli ascoltatori, albanese, imprenditore, viaggiava contromano sulla 26, sì, esatto. Ha ucciso 4 ragazzi francesi. Allora voglio dire, poi per esempio c'è stata anche la condanna a 15 anni e mezzo per l'uccisione di Rocco Trivigno, a 14 anni in appello, certo, per l'Alessandro Mega. Cioè, lei il dice problema, ci il problema sono già... fondamentale è che deve cambiare la cultura dei magistrati, perché anche quando si inserisce un nuovo reato, se i magistrati continuano a partire dal minimo nell'applicazione della pena, non si è ottenuto niente lo stesso. Quindi noi dobbiamo puntare la nostra attenzione sul fatto che i magistrati debbono osservare le norme, perché c'è l'articolo 133 del codice penale che stabilisce il compito del magistrato e dice che il magistrato deve valutare la gravità del reato desumendola dalla gravità del danno, quindi ammazzato o no, dal grado della colpa, e quindi ha assunto in maniera irragionevole un rischio, qualunque esso sia, o sotto effetto di alcol, guida sotto effetto di alcol o droga, oppure anche se non è sotto effetto di alcol e droga, guida come un pazzo. Queste cose sono gravissime. Insomma, lei dice gli strumenti ci sono già, è chiarissimo. Le indicazioni ci sono, i magistrati invece sono abituati a partire sempre dal minimo nell'applicazione della pena. Dire che è necessario cambiare le norme per poter adeguatamente punire, riconoscere e punire un reato, un comportamento criminale, e significa offrire ai magistrati un alibi per cui continuano a fare quello che vogliono, mentre invece le norme ci sono. Il Quindi suo punto di vista è chiarissimo. Chiedo di intervenire anche a Guido Piccoli, direttore di ALOT, Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti, ma anche a capo di un progetto SOL sulla sicurezza delle strade in Europa. Buongiorno. Prima battuta, l'Italia è un caso a sé o siamo in un contesto, voglio dire, di una problematica che ovviamente riguarda tutti? Come siamo posizionati nel contesto europeo? Dunque, a livello europeo l'Italia si posiziona, mi sentite, buongiorno, in un livello di media, la media europea dei morti su milione di abitanti è circa di 69 all'anno, mentre l'Italia è di 68, quindi diciamo leggermente migliore della media europea. Si trova quindi in una posizione mediana tra quelli che sono i paesi con maggior rischio di vittime, i paesi soprattutto dell'est Europa, e quelli invece più virtuosi, i paesi, l'Inghilterra in particolare, ma anche i paesi diciamo dell'Europa occidentale. Questo sicuramente grazie al livello delle infrastrutture che migliore, ma anche diciamo un'educazione generale, sociale e di comportamento sulla strada che è sicuramente migliore. Infrastrutture, naturalmente, una parte essenziale di questo problema, di questa complessità. Ne parliamo tra un momento con un altro dei nostri ospiti. Intanto sono molti, come sempre, i messaggi. Questo è un tema naturalmente che riguarda tutti noi e che di fatto vede anche tutti noi ogni momento tra diciamo potenzialmente come vittime, come carnefici. Sono un autista di autobus, per esempio, scrive un nostro ascoltatore Marco questa mattina, dice a Firenze: mi spiace dire che molto spesso i ciclisti pensano di poter passare ovunque, mettendo in serio pericolo se stessi, creando problemi. Adesso sentiamo le notizie per chi è in viaggio, poi torniamo dai nostri ospiti. 24 mattino, estate. Sanzioni, codice, applicazione, urbanistica, naturalmente molti punti di accesso a questa complessità. I nostri ascoltatori in onda, Francesco da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Niente, come dicevo con la sua collega, io sono diversi anni che continuo a sollecitare sia il sindaco che l'assessore per il nostro paese per poter collocare dei tutor, dei controlli. Qual è il suo paese? Preferisco non dirlo. Addirittura. per non far cattiva pubblicità al paese, comune, perché sì. Lo ritiene un paese con dei passaggi pericolosi, sì, perché in Italia l'Italia sì, è anche fatta da strade statali che attraversano paesi, poi pian piano tendono a svanire, ma insomma. E quindi qual è il problema è vostro? Anche perché il problema è che le auto e i camion passano a velocità altissime. E ho sollecitato, come dicevo prima, il sindaco per poter mettere dei tutor, visto, come dicevo prima, che ci sono anche problemi di cassa, sarebbe un modo anche per far rientrare qualche soldo in cassa. Grazie dunque sì. A Francesco da Parma. Onorevole Valducci, su questa parte che riguarda la segnaletica in senso ampio, ma anche la viabilità, è una parte che deve essere affrontata, che viene affrontata come dal progetto? Guardi, non c'è dubbio che il tema della sicurezza stradale riveste un'importanza fondamentale anche dall'approccio dei sindaci. I sindaci possono fare tantissimo, perché ricordo che purtroppo l'incidentalità mortale ormai si è spostata prevalentemente nei grandi centri urbani e poco nelle strade, diciamo, autostradali. Quindi è fondamentale anche il contributo che possono dare i sindaci nel, per esempio, mettere a posto, come lei ricordava, le infrastrutture, perché spesso gli incidenti pericolosi si hanno negli stessi punti. Volevo solo dire una cosa sull'ergastolo della patente, no? Prima abbiamo parlato del reato di omicidio stradale, vuol dire che noi stiamo comunque procedendo anche parallelamente al disegno di legge delega che ho prima spiegato del codice della strada, anche su un provvedimento puntuale che prevede la revoca fino a 15 anni per chi si macchia di un omicidio stradale attraverso una guida sotto lo stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o da pirata. In questi casi c'è una revoca che prevediamo nel nuovo provvedimento legislativo di 15 anni di revoca della patente, che è molto simile a un ergastolo della patente. Ricordo che ad oggi era prevista una sospensione fino a 4 anni delegata al prefetto. Fino a 4 anni. Per quanto riguarda invece gli altri casi di omicidio stradale, ovvero sempre quando c'è una guida, diciamo, non attenta, la revoca è prevista a 5 anni. Quindi fino a che non si ha la sentenza, si ha la sospensione della patente e poi la revoca fino a 15 anni nei casi più gravi. Noi pensiamo che questo possa rappresentare un deterrente importante. Personalmente ritengo che le pene, siano esse di natura sanzionatoria amministrativa che penali, servono come deterrente, perché nessuno di noi si augura che la gente trascorra anni in carcere. Certo, certo, però infatti. Pensiamo, e mi auguro che quanto diceva la dottoressa Corsaniti sia poi seguito anche dai magistrati, che è vero, queste sentenze che ricordava spesso sono sentenze di primo grado. Ecco, mi auguro che anche il secondo grado in Cassazione vengano confermate, perché sarebbe sicuramente un segnale importante rispetto a quelle migliaia e migliaia di familiari delle vittime, che in Italia sono tantissime, che spesso non solamente non hanno più il loro caro di fianco a loro, ma non hanno neanche la dignità, diciamo, il rispetto che si dovrebbe avere nei confronti di chi, diciamo, ha avuto un parente o addirittura un figlio ammazzato da una guida assolutamente non confacente con le condizioni della salute della persona o della strada. Grazie, una battuta solo: quando dunque il nuovo codice della strada, in che tempi? Guardi, come Camera noi vogliamo entro il mese di ottobre approvarlo, per dare la possibilità al Senato prima della fine legislatura di approvarlo. Grazie a Mario Valducci, lo ricordo, Presidente della Commissione Trasporti alla Camera, grazie di essere stato con noi, con Guido Piccoli e Giuseppa Cassaniti Mastroieni. Dunque parliamo di questo tema, abbiamo anche un altro ospite che è Dario Manuetti, direttore dell'associazione La Città Possibile, una città possibile anche magari da ridisegnare. Alcuni alcuni modelli, alcuni diciamo esperimenti che però sono già presenti nelle città italiane, come le zone a 30 km all'ora e così via. Insomma, quanto conta lavorare sulla città per ridurre questo fenomeno drammatico? Parla con Dario Manuetti, sì? Sì, ci dica. Ah, sì, è determinante pensare prima di tutto tra i decisori, tra quelli che fanno le scelte politiche, istituzionali, le culture professionali che riprogettano la città, ma non solo dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista della viabilità, della manutenzione e dal punto di vista dei controlli. Al fondo dei controlli poi ci sono poi i giudici, se ne è parlato un momento fa. Decisivo è cambiare, come dire, la struttura fisica degli spazi pubblici destinati alla mobilità. Abbiamo avuto una dominanza totale fino a ieri, forse ancora fino ad oggi, della mobilità motorizzata individuale. Si può trasformare ridando quelle priorità che la storia di tutta l'umanità aveva garantito agli abitanti delle città, a piedi, poi negli ultimi 100-150 anni anche in bicicletta, le strade erano gli spazi per la mobilità di tutti, per il gioco, persino per una parte di attività economiche. A un certo punto, a partire dalla travolgente crescita dopo gli anni 50, si è trasferito tutto come priorità, come strutturazione delle strade, come tipo di controlli, come dominanza degli interessi al mezzo privato. Certo, dall'automobile al camion e così via. È un cambio epocale che sta camminando nella testa di tanta gente, e non solo di quelli che hanno cominciato alcune battaglie, vittime della strada, i diritti dei bambini al gioco. Lei dice è tempo di invertire questo percorso? È in corso di cambiamento, parzialmente nelle politiche, lentamente ma parzialmente nelle culture professionali dei progettisti eccetera, un po' in ritardo sui controlli, quindi l'aspetto sanzionistico che deve essere però collegato a un lavoro educativo, culturale, assolutamente, ma sta cambiando nella percezione delle persone, nell'attenzione dei media, nelle domande che salgono dalla città. Oggi è conveniente per anche un politico, e anche per un discorso ovviamente di qualità e di interesse della vita in città e dell'interesse generale, stare ad ascoltare pedoni, ancora flebile la loro voce, cerchiamo di rianimarla, portandola, come dire, a seguito, facendola trascinare dalla crescita indiscussa della sensibilità e della domanda politica e sociale, ricca anche di consigli tecnici che ci vengono dai cittadini ciclisti organizzati in grande crescita e con una cultura di moderazione del traffico che non riguarda solo loro, il loro mezzo, ma i pedoni, i bambini, gli anziani, tenendo anche conto degli automobilisti, ma il loro destino è di vedere ridursi gli spazi fisici della città, la tolleranza nei loro confronti pericolosi, nella loro ancora inadeguata percezione, la loro inadeguata percezione dei diritti degli altri. Ma siamo su questa strada. Una strada dunque avviata, dice Dario Manuetti, una trasformazione, in parte un ritorno, ma appunto un'evoluzione anche della sensibilità per riappropriarsi di spazi che effettivamente, insomma, sono storicamente nuovi, diventati appannaggio assoluto dell'automobile. Volevo ancora sentire i nostri ascoltatori da Modena, ci chiama Tommaso, buongiorno. Io mi volevo ricollegare al discorso iniziale di quelle persone che parlavano di leggi su leggi. Sì. Qua si sta continuando a fare leggi, le leggi già ci sono, il punto è che per strada manca il controllo. L'unico controllo che viene effettuato dagli organi addetti al controllo è semplicemente per farti un verbale o una multa simbolica, però di fatto nelle strade, poi ricollegandomi sempre al fatto delle infrastrutture, quali infrastrutture in Italia, mi scusi? L'altro giorno io dovevo uscire a Trezzo sull'Adda, non c'era nessuna segnalazione che il casello era chiuso, un esempio. Grazie noi, Tommaso, noi abbiamo ancora una battuta direi da Roma, Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno, infatti è proprio una battuta, io torno dalle ferie dalla Finlandia dove sono stato 2 settimane e sentire questi discorsi adesso a livello politico, nulla si fa secondo me in Italia per instillare un senso civico degli automobilisti, perché in Finlandia probabilmente si parte dalle scuole e dalla mentalità, e la politica in Italia è molto distante da tutto questo. Si va a 50 se il limite è 50, 60 se il limite è 60, appunto non si, cioè, le chiacchiere, come si dice, insomma, stanno a zero. Stanno a zero. Grazie Fabrizio, quindi meno leggi, più applicazione, più cultura. Piccoli, a proposito di scuole, applicazione, c'è un modello, abbiamo parlato un momento fa della Finlandia, ma insomma c'è un modello di grande paese europeo. So che in Francia è stato fatto un grandissimo lavoro in questi anni, una vera e propria battaglia contro un fenomeno di fatto identico, un modello cui ispirarsi. Sono diversi modelli, citava l'ascoltatore la Finlandia, d'altra parte non è così distante dall'Italia in termini di percentuali di morti, parliamo di 53 per milione di abitanti, quindi l'Italia in realtà, anche se non viene percepito, è tra i paesi della fascia, diciamo, virtuosa. Esistono casi molto molto peggiori, se andiamo in Romania o nei paesi tipo in Polonia, dove arriviamo a 130, quindi il doppio di quella che è la nostra realtà. L'educazione è fondamentale, anche in Italia si è fatto molto da parte, purtroppo tante volte, iniziative proprie di singoli enti, autorità, anche vigili urbani che entrano nelle scuole, che i bambini, anche da parte nostra abbiamo promosso insieme alla provincia di Brescia delle iniziative proprio di educazione dei pedoni, ma non soltanto del bambino, ma anche la trasmissione tramite il bambino ai genitori, come posteggiare le macchine, come evitare di bloccare gli accessi, gli attraversamenti pedonali. Quindi la parte di educazione è sicuramente fondamentale e virtuosa, però se posso aggiungere anche quella di controllo, devo raccogliere lo stimolo da parte di uno degli ascoltatori. Se vediamo l'esempio della patente a punti, quando è stata applicata, come si è creata una riduzione di incidentalità e come purtroppo a seguire controlli inferiori o sanzioni inferiori inevitabilmente hanno riportato a un minore interesse da parte degli autisti, degli automobilisti. Quindi sicuramente bisogna lavorare sull'educazione e il controllo e l'elemento infrastrutture, che rimane a livello italiano virtuoso rispetto ad altri paesi europei, è anche un elemento strategico. In un momento come questo di limitazione delle risorse pubbliche, bisogna però considerare che il costo sociale dell'incidentalità, delle morti e soprattutto delle menomazioni derivanti è di circa il 3% del PIL a livello europeo e quindi anche italiano. Quindi un valore economico che dà un ritorno dell'investimento, si possono usare termini economici molto, molto grezzi nell'ambito di questo, che è un problema evidentemente di grande sensibilità, che giustificherebbe sicuramente un'attenzione maggiore, quindi sia negli investimenti nelle scuole che nelle strutture di controllo e prevenzione, che anche nel miglioramento delle infrastrutture. Grazie a Guido Piccoli, grazie a Dario Manuetti, grazie a Giuseppina Cassiniti Mastroianni, lo ricordo presidente dell'Associazione Italiana Familiari delle Vittime, all'onorevole Mario Valducci, invece presidente della Commissione Trasporti alla Camera. Grazie a tutti voi ascoltatori di Radio 24, che appunto scrivete, continuate a scrivere i vostri sms, partecipate ogni mattina alle nostre trasmissioni. Abbiamo fatto così su questo tema, su queste parole, gli ascoltatori scrivono anche, sono parole, certo sono parole, magari nella speranza di poter dare tutti quanti, anche ciascuno nel proprio comune, nel proprio gruppo di relazioni, un piccolo contributo al cambiamento. Con questo abbiamo chiuso, tra poco GR24, poi naturalmente l'informazione prosegue nella mattinata di Radio 24, appuntamento a domani.